Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Siamo stati i primi a farli e ce li invidiano tutti. Parliamo dei certificati bianchi, o meglio dei titoli di efficienza energetica. Ora anche Francia, Inghilterra e Belgio li hanno adottati, pur con qualche differenza rispetto a noi italiani. Insomma, per una volta possiamo dirci bravi, e allora facciamolo e cerchiamo anche di capirci qualcosa di più grazie a Nino Di Franco, esperto di risparmio energetico nel settore industriale dell'ENEA, l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile. Buonasera Di Franco. Buonasera. Dunque, lei ha seguito questa vicenda dei certificati bianchi, direi, sin dall'inizio. È forse la persona più indicata per farci anche un pochettino di storia. Da dove arrivano? Allora, il tema è abbastanza complesso, perché il legislatore italiano ha voluto risolvere un problema che le precedenti leggi di incentivazione non riuscivano completamente ad affrontare e risolvere. Il problema è il seguente: quando io mi trovo a dover sostituire un'attrezzatura che ormai è arrivata a fine vita e la sostituisco perché ne sono obbligato, perché per esempio la mia caldaia si sta rompendo perché ormai ha più di 15 anni, la sostituisco con una caldaia corrente e le vecchie leggi di incentivazione a fronte di questa sostituzione mi premiavano. Questo approccio non è stato ritenuto corretto perché si è pensato che in effetti se la caldaia viene meno e io la sostituisco con una corrente, quell'investimento in ogni caso io ero l'avrei fatto, certo. No? E quindi perché dovermi premiare? Si è premiato adesso solamente l'approccio che va verso un miglioramento dell'efficienza energetica rispetto ad una media di mercato, rispetto ad una situazione standard di riferimento che in ogni caso io sarei stato chiamato a dover affrontare. Vengo premiato solo se riesco a dimostrare di fare meglio di più rispetto a quello che la tecnica convenzionale mi rende disponibile. Ecco, quindi veniamo al meccanismo dei certificati bianchi. Il concetto fondante è il seguente: per poter innescare questo meccanismo sono stati individuati dei soggetti obbligati, ossia dei soggetti che hanno l'obbligo di dimostrare di aver raggiunto un certo risparmio energetico alla fine dell'anno. Okay. Questi soggetti sono i grandi distributori di energia, che sia elettrica o che sia gas. Per ognuno di costoro, tramite un apposito algoritmo, viene definito un obiettivo di risparmio energetico. Parliamo di quei distributori che hanno più di 50.000 clienti. Sì, questi sono detti grandi distributori. Per ognuno di questi viene stabilito questo traguardo da dover raggiungere ogni anno e praticamente si tratta di far risparmiare energia ai propri utenti. Ognuno di questi grandi distributori deve dimostrare di essere riuscito a far risparmiare energia ai propri clienti finali. D'accordo. Per fare questo ci sono tre vie da poter seguire: o il soggetto obbligato realizza esso stesso con proprie risorse interventi presso gli utenti finali, realizzando che ne so, recuperi di calore, installando apparecchiature più efficienti dal punto di vista dell'utilizzo dell'energia elettrica e cose del genere. Oppure, parallelamente, ci sono altri attori su questo contesto che si chiamano soggetti non obbligati e che sono i distributori con meno di 50.000 clienti, le società di servizi energetici, ossia le ESCO, e quelle aziende che hanno nominato un energy manager. Questi attori, nel loro complesso, possono anch'essi realizzare interventi di risparmio energetico. Per ogni intervento realizzato si fanno riconoscere un'altrettanta quota di titoli di efficienza e li possono contrattare bilateralmente con i soggetti obbligati, ossia con i grandi distributori. Questo significa che il soggetto obbligato può decidere o di effettuare queste operazioni di efficientamento oppure di comprare un equivalente in titoli, perché ad ogni titolo, ad ogni certificato bianco corrisponde una certa quantità ben precisa di energia risparmiata. Esattamente, corrisponde un tetto, ossia una tonnellata equivalente di petrolio. D'accordo. Il contenuto energetico che è sviluppabile da una tonnellata di petrolio. Bene. Sono 10 milioni di chilocalorie. E parliamo di una cifra, in questo momento c'è proprio una quotazione. Sì, esattamente, perché il terzo meccanismo con il quale i soggetti obbligati possono acquisire titoli è rivolgendosi a un apposito mercato che è stato istituito dal GME, gestore del mercato elettrico, e sul quale questi titoli sono liberamente contrattabili. È un classico mercato azionario, certo, nel quale si confrontano la domanda e l'offerta. Quindi i soggetti non obbligati vendono sul mercato, quando loro lo ritengono conveniente, titoli in loro possesso, sesso che si sono visti riconosciuti realizzando interventi di efficientamento, e su questo stesso mercato i soggetti obbligati si rivolgono per poter acquisire titoli, ovviamente anche dal loro punto di vista, nel momento più opportuno, considerando la valutazione corrente in quel momento. Va bene, grazie Di Franco. Grazie a lei, buonasera. Bene, domani l'informatica torna protagonista, parleremo di come risparmiare energia nella gestione di una flotta di veicoli. Questo è tutto, come sempre attendiamo i vostri commenti a mr.kilowatt@radio24.it. Buona serata.